stufa. Eia, non c'è problema, di là mai, ne importo quanto ne vuoi. Peccato che non c'è qualche condizionatore che va a bombola, se no l'avrei messo pure. Ciao, ben sentito. E io così ho fatto oggi commissioni in modo che domani mi barrico in casa e domani e dopodomani non esco. Che qua bisogna stare attenti con la temperatura. Oggi sono uscito in moto, ho fatto due commissioni, era tutto anche in versione estiva. Sandali aperti, pantaloncini. Ho capito, no, io te. Purtroppo tocca uscire per forza. Devo andare a travagliare. Eia, casomai mettiti comodo, mettiti un po' leggero. Perché veramente tra domani e dopodomani si crepa. E poi la cosa è che il caldo rimane dentro casa, sta stagnando dentro casa il caldo. Guarda, se stanotte rinfresca come ha fatto ieri notte, io poi apro tutte le finestre e faccio passare l'aria. Ecco qua, adesso mi ho aperto il cernaio. Ecco, ora si sta più bene. Via. Cosa l'hai più sentito? Luca del Monte non ho più sentito, prima entravate di sera, ma state facendo, tu stai facendo karaoke tipo roba del genere? Ah vabbè, per quello, quindi alla radio non ci siete. Ogni tanto lui lo sento che entra tipo alle 9, bobo andiamo beh, con la vocina, no? Però poi non c'è un'anima, non c'è un'anima. E va bene tu. Purtroppo l'estate esplosa e ce la dobbiamo tenere. Io fra poco mi devo mettere la moto a posto, il motorino, è fatta la giornata. Aspetta che me l'ho scurato il cancello, ma la porta, un attimino. Meglia. C'è un casino di propaganda. Un aggaggino. Meglia, però fine serata si allunga troppo. Cominciano ad arrivare anche quelli esteri. E qualcosina in questi giorni in AM l'abbiamo fatta. Catanzaro, sai, un po' nord Italia, un po' sud Italia. Cos'è entrato l'altro giorno? Un'altra, Siena o cosa era? Non mi ricordo. Ma giusto per dare il controllo, poi baci, abbracci. Tanto la propagazione si apre e si chiude in pochi secondi, in pochi minuti anche. Stanotte vediamo se c'è qualcosa in TV, qualche film da guardare, qualcosa, boh. Sennò poi sono lunghe le serate. Beh, Antonio, io mi muovo, dai, comincio a mettere il mezzo dentro, poi torno a casa, mi accendo la TV, mi prendo qualcosa di fresco e boh. Avanti! Ma io dico questo cazzo, ma adesso, ma cazzo non capisci che sei guglione cazzo, e rientra ti fa la chiacchierata, ma cazzo ti fa la bernaccia, che sei idiota da quando sei nato. Avevo lo squalcialzato, cosa ha fatto la pernacchia? E allora? Ma è quello solito che da 2-3 anni chiama o fischia e poi la pernacchia, bobo. Esatto. Ma io dico, guarda si fa la chiacchierata, cazzo. Cazzo, cosa cazzo mi ha fatto a me? Ma cosa cazzo si fa la pernacchia? Che c'è proprio una bassona guascia, mi dispiace ma sì, si bassi fondi sì gatto, sei guascia e buh, perché non è possibile che uno lascia un microfono per fare la bernacchia. Ah cazzo di imbecille sei, ma non ti nande. Ma non c'è la roba di propagazione pure? No, è la roba locale, non ti preoccupare. Minchia. E vabbè, vuol dire che non hanno argomenti, e d'altronde a fine serata anch'io sono mezzo cotto dal caldo però, io ho bevuto solo acqua oggi, ecco frizzante. Vabbè, anch'io ti lascio, faccio queste ultime cose, poi mi denudo e mi accendo la TV. Ok, ci sentiamo. Ciao Anto, buona serata, buon tutto. Ciao, ci sentiamo. Ciao. La cena, c'è un rattore che ballo una chicana, pure da ballare paglia, ballare grana. Attenzione, copiate Sardegna che fa chiamata, becco! vai avanti. K, mi senti? Qui è Antonio da Sassari, buonasera 7351. Buonasera. Attendo Franco. Vabbè, bastardo il portantista. E come siamo? Ecco. Sono quello che sai fare. Purtroppo qua ci abbiamo un birichino, ci abbiamo, scusate. Che si gioca con la portante, si gioca, quindi non è che ti ascolta molto bene. Ma prima mi sei arrivato fortissimo, mi sei arrivato. Però comunque ti saluto. Ti saluto tutti. Fino a Usta, mia zona terra, a Pizzarra, qua. Oh, si chiama a Lugli e giù però. Aspettiamo. Comunque è bassa, è solo 7 la portante, Santiago 7 mi qua. E qua è 9. Macchino Cinnandi. Sì, guarda, ti fanno passare la voglia di... già la poca voglia che c'è di fare radio. Vabbè, tanto ti dinde. Dai, sentiamo in due occasioni, ciao. Ma fra noi già non ci facciamo niente. Luca! Sono qua, ci ascoltano perché mi registrano un telefono. Pure a me prende la portante, si sarebbe buttata in culo la portante. Stiamo per il giugno, prima i guglioni, il gas azzerato in casa va a punire la portante. Io mi sarei vergognato, ci credi? Mi sarei vergognato. Sì, ma le vai, le metti proprio la copertina a lume. Vai, allora, vai, è andato. Quanto manca Francesco? Ciao Lu, la portante quanto è da te? Ah, ma arriva la bicchierina, ma arrivo, è bassa. Sì, 7 qua questo smitter, però che senso ha? Boh, vabbè. Dai, un saluto a tutti, sto uscendo, ciao. Oh, c'è qualcuno che ascolta Città di Potenza? Avanti, chi è? Capo, stai arrivando abbastanza forte qua, già ti ascolto. Anche se c'è uno che si sta giocando, comunque ti ascolto più a te che a lui. Non ti preoccupare. Chiamo un mongoloide, va a chiamare un mongoloide. Se tu fai aprire un mongoloide, assolutamente per mettere di male. Capito? Cosa cazzo, entrate in casa sua, va, un wifi gatto, ma fai a buttare a mare, affogati. Luigi! Poi sta a ciappa, ne fate da culo, se venti... Va, che gente, tu. Dai, 27 secondi. Che male, sembra che si passona, eh. Ah, ma dai, scusate voi che siete in propagazione, ma... C'è un imbecille che si gioca con la portante e noi qua riusciamo a passarlo, lo passiamo 10 volte. E cosa volete fare? È un imbecille. Che vuoi fare? Purtroppo è un casino. Non c'è mai nessuno. E in più cioè, si mettono queste persone. Ho parole. A me sinceramente Baracchino guarda me c'è dai coglioni. A me non mi fa niente lui. Oh, ma Corbero mi goca. Puoi giocare quanto vuoi come Luca, tanto non mi fai niente. Facendo l'amplificatore te lo faccio vedere io. No. Lascia perdere, ma che importanza, fai finta di non sentire, io non arrivo più qua. Oh, non arrivi a una briga, è importante. Scemo, cosa vuoi fare? passare avanti. Guarda, purtroppo non mi dispiace, non ti sento perché c'è questa portante. Comunque ritieniti salutato. Sono lenta, la fanculo, sono bene il nome, se vuoi, se si iscritti. Microgrammi. Il coso, il... Vediamo cosa c'è scritto qua. No, antistamini, colato, ma ti cazzo di giamma. Antibiotico. Cortisone. Mamma mia. Potente. Stavo leggendo qua, mancano i stagionali. Esercenti poca passione e scarsa motivazione. Andiamo bene. Oh, yeah. Ha scritto dopo, ne guadagna sorvetti. Cosa? Ha scritto tu, ne guadagna sorvetti. Sardegna, lo so. Che è avanti? Ascoltate Brindisi, pronto? Avanti Brindisi, la Sardegna ti ascolta. Positivo, buonasera, forti Brindisi qua, Fabio Laportante che vi saluta. Cappa, io sono con l'amico Luca, forti arrivo da quelle parti a Brindisi. Buonasera, dai, segnale 5-7, dai, tutto roccio. Cappa, avanti Lu. Non lo sento, sono attenuato, c'ho l'attenuatore. Cappa, amico di Brindisi, saluta. Canale 10, prego, canale 10 per un controllo. Non so se mi ascolta l'amico di Brindisi, boh. Attenzione, canale 10. Avanti Matera. Dimmi che vero. Sì, sono in Sardegna, a Sassari. Buonasera. Maissimo, tirato provincia di Matera qua, San Giorgio Lucano, 7-3 cordialità a tutta la ruota, cambio. Cappa, salutoni Matera, salutoni, ben sentito, io sono in compagnia con l'amico Luca della stessa città. Avanti Luca. Non lo sento tu. Non riesci a sentirlo? No. A me mi arrivava per 9:10 oltre. Qua non arriva, cosa vuoi ti dica? Lu, ti sta salutando. Ma non lo sento tu, cosa ci posso fare? Cappa, Luca mi ha detto che non ti sente, tu lo senti a Luca? Non mi sente. Attenzione terza di Coppici, città di Potenza, il principale. Cappa, avanti Potenza, avanti Sardegna ti ascolta. Buonasera, dai, sei andato pure prima ma non mi ascoltavate. Della città di Potenza, una buona serata. Cappa, buona serata anche a te, segnale 9:20, Radio 5, stazione Sassari, antenna Ringo Lem, stazione fissa, avanti. Cappa, dai, ti passo l'amico Luca, non so se ti sente. Senti Potenza, Luca. Luca? Bah, Luca non c'è più. Avanti. Qui non è più casa, ricordi questa canzone? Non l'ho sentita. Avanti. Ci siedo. Cappa, qua arriva una fucilata, 9:20 Radio 5. Addirittura. Cappa, sì, una cannonata, sì, qua in Sardegna. Dove siete buttati in Sardegna? Che zona? Sassari. Cappa, dai, positivo. Tutto roccio. Ciao ragazzi, vi saluto che entro in zona nativa qua, zona industriale di Brindisi, della novella vi saluta, capo. Ah, senta la novella, sì, l'avevo già sentito un po' di tempo fa quando avevo l'apparecchio modificato, adesso, adesso sono in stazione fissa, sono in stazione fissa con una radio un po' più seria. Sì, dai, ogni tanto ci facciamo qualche chiamata qua, dai, dottor Rogero. Gabba, vediamo ancora se c'è Luca. No, Luca non c'è. Positivo, dai, vi saluto comunque questa zona nativa qua, Buon proseguimento, magari ci sentiamo dopo, cambio. Ehi, ciao, ce la risentiamo. Alle prossime. Avanti che chiama la Sardegna. Sì, mi ascolti? Avanti, ti ascolto. Cappa, avanti Potenza, già ti ascolto in Sardegna, avanti. Non so se riesci Gamba.